felice amare tuo addio, allontana la suore, e tu dici amare tuo addio. Sono irascibile, molto discutibile. Serena scura, madonna ladrona, fanculo lì ti scambio a scuola. Io sono socievole, poco convenevole. Piaccio non piaccio, rinasco Dio cazzo. Questa volta giuro fa mazzo. Sono un tipo instabile, poco presentabile. L'effetto di fatto ha un finto difetto. Ti fotte in fretta e non frutta affatto. E tu dici amare tuo addio. Cercherei di fare quel che mi pare, rimanendo sempre me stesso. Se rinascesse adesso, se troverei il giusto compromesso tra stile e successo, amore e sesso, le cose che valgono e tutto il resto. Se rinascessi adesso, farei tutto all'opposto e sarei all'opposto di come sono adesso. E tu dici amare tuo addio. Se rinasco ora faccio gospel, gospel, ma poi mi massacro come il gospel, gospel.